Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. I giornali. È giovedì 30 gennaio e intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore è Fiat Chrysler parte la sfida. Ed è l'apertura anche di vari quotidiani. La Stampa mette un'intervista a John Elkann. Auto, ora un futuro più solido. Questo è il titolo di prima pagina. La vedono in modo diverso, cioè il fatto che Fiat lasci l'Italia. Questo almeno è il titolo del giornale. Fiat lascia l'Italia, finisce un'epoca, con la sede legale in Olanda e fiscale a Londra. Libero, ci siamo giocati pure la Fiat. Il secolo XIX, l'Italia senza la Fiat. La vicenda parlamentare di ieri invece è l'apertura del Corriere della Sera. Grillini all'attacco, rissa in aula sulla legge elettorale, invece l'accordo tra Renzi e Berlusconi. Anche per il Fatto Quotidiano, impeachment, Movimento 5 Stelle a Re Giorgio, rivolta sul regalo alle banche. Questo è il titolo di prima pagina. Per il Messaggero, niente IMU, cambia il catasto, caos in aula. Repubblica invece mette Renzi-Berlusconi, ecco la riforma, l'accordo sulla legge elettorale. Per l'Unità, respinto l'assalto di Grillo, mentre il Manifesto sbanca Italia, cioè per salvare le banche. Alla Camera cala la ghigliottina sull'ostruzionismo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Vabbè, ma io voglio iniziare da quello che è diventato ormai un romanzo rosa, anzi lo definisce il Messaggero la Mandrilleide d'Abruzzo. Perché continuano puntate sulla vicenda che ieri è stata, l'altro ieri è stata denunciata dal Fatto e ieri dal Corriere della Sera confermata dal governatore dell'Abruzzo Chiodi, e cioè il fatto che il presidente della regione abbia dormito 3 anni fa con una donna che non era sua moglie, e poi questa donna ha avuto un incarico, diciamo, e secondo la procura si deve vedere se ha avallato dallo stesso governatore. Poi certo c'è il fatto che quella notte in albergo è stata messa a rimborso della regione. La nuova puntata è che Antonio Massari del Fatto Quotidiano intervista questa donna senza nome e cognome, è definita la donna della camera 114 all'Hotel del Sole di Roma. Sì, ho dormito con Chiodi, ma l'adulterio non è reato. Questo è il titolo dell'intervista. È singolare che chiedano le mie dimissioni, dice questa signora. Come mai non chiedono quelle del governatore? Faccio sommessamente osservare che sono coinvolta in una situazione che mi vede vittima e che non comporta alcuna responsabilità penale. Vorrei ricordare che l'adulterio non è più considerato reato e per le considerazioni morali rispondo solo alla mia coscienza e alla mia famiglia. Però mi rendo conto della cultura che ancora domina in questo paese e di come purtroppo le donne siano nemiche delle donne, ossequiose del potere maschile. Ma insomma, si dimette, signora? No. La mia nomina, guadagno 180 euro lordi al mese di indennità, ai quali vanno aggiunti di volta in volta 30 euro come gettoni di presenza per eventuali riunioni in commissione. Comunque dice, per la mia nomina non c'è stata alcuna pressione del governatore, nessuna delle mie concorrenti poteva vantare tra i titoli un insegnamento universitario nella disciplina delle pari opportunità. Vabbè, sta di fatto che, e ho usato questo termine mandrilleide, non lo uso io, Mario Aiello sul quotidiano Il Messaggero fa un'intera pagina, pagina 9, davvero spassosa, si può dire anche nel suo modo di scrivere, rimborsi e camere doppie, ecco l'Abruzzo mandrillo, cherche la femme, scrive Aiello, come si dice in slang indigeno, boh, ma la caccia è aperta, è la mandrilleide d'Abruzzo in cui si mescolano eros, politica e soldi pubblici, un po' Boccaccio, un po' Fiorito, un po' Priapo nella terra di Celestino V e di Ignazio Silone, diventerà ancora più gustosa appena i volti segreti delle 4 donne misteriose avranno un nome. Per ora, tra Pescara e L'Aquila, Lanciano e Teramo, ci si sbizzarrisce così. 3 di Pescara e 1 di Roma. Una giornalista, una grafica e un'avvocatessa. E quella dell'Urbe fa la commerciante. Soltanto lui, uno dei big locali indagati, conosce l'identità delle mistress, secondo la definizione usata dai romantici inglesi per le amanti nascoste. E gli altri mandrilli istituzionali in questa storia clamorosa che rovescia l'immagine dell'Abruzzo, definita a suo tempo da Giorgio Manganelli un grande produttore di silenzio, Beh, c'è il governatore Chiodi che ha confessato di aver dormito all'albergo di Roma con una donna che non è sua moglie. E poi lei è stata presa a lavorare alla Commissione regionale pari opportunità, ma in questo io non c'entro. E poi c'è Nazario Pagano, presidente del Consiglio regionale, coordinatore abruzzese di Forza Italia, finito nella buriana erogena, forse più inguaiato del suo presidente. Pensate che Antonio Razzi, genius loci, lo definisce Aiello, ha dichiarato: ma noi abruzzesi siamo così, forti, veraci, maschi veri. E insomma, una vicenda che avrà altri sviluppi, ma incredibilmente continua sul Corriere della Sera, dove c'è invece l'ex assessore De Fanis, quello che era accusato di aver fatto addirittura una sorta di contratto, 3.000 euro al mese per prestazioni sessuali nei confronti dell'ex segretaria, che oggi alle 10 si vedrà in tribunale con un faccia a faccia proprio nei confronti dell'ex segretaria, che addirittura accusa voleva avvelenare la moglie per vivere con me. Ma è una vicenda che diventa anche un film thriller. Il triangolo amoroso dal PM, l'assessore, le farò un saluto veloce e via. Ma lui, lei e l'altra in procura, l'articolo di Fabrizio Caccia, pagina 14, voleva avvelenare la moglie per vivere con me. Che devo aggiungere? Cari ascoltatori, è tutta una vicenda legata, oggi ci sono notizie legate a, come dire, anche a un po' di sorta di pruderie e di voyeurismo. Per esempio, vogliamo continuare? È successo che il ministro Kyenge ha licenziato il suo portavoce Cosimo Torlo. E le voci c'erano già, ma Libero e il Corriere della Sera insistono: non è che Galeotta fu un'intervista al marito della Kyenge che disse parole non tenere nei confronti del portavoce? Ha vinto mister Kyenge, si dimette il portavoce raccomandato dal PD. Disse il marito della Kyenge: mia moglie è mal consigliata, il suo addetto stampa è stato imposto dal partito. E secondo Libero, però, dietro a questo cosa c'era? L'umana gelosia. E anche il Corriere: via il portavoce sgradito dal marito della Kyenge. Il portavoce dice: non mi sono dimesso, come dire, sono stato licenziato. E anche il Corriere della Sera con Giovanna Cavalli fa sapere che forse una delle motivazioni può essere l'umana gelosia. Sta di fatto che se il Kyenge viene intervistata dall'Unità, pagina 5, dice: non mi dimetto, perché queste erano altre voci, le dimissioni invece della ministra stessa. Altro che dimissioni, dice il ministro Kyenge: non ci penso proprio, rilancio la mia battaglia, una battaglia di civiltà, sono determinata a portarla in fondo. Tanto più che, oltre al contrasto a ogni forma di discriminazione, è sempre più urgente identificare strumenti e azioni per arginare una degenerazione culturale che è anche imbarbarimento del linguaggio politico. Cioè si riferisce agli insulti. Gli insulti anche ieri al presidente Napolitano, dice ministro Kyenge: penso che in questo episodio la politica dell'insulto abbia raggiunto il culmine. In questo caso tutti si sono indignati, come giusto, ma vorrei dire che non si può sottovalutare le offese che bersagliano quotidianamente tutti quelli che vengono percepiti come l'altro da sé. E a proposito di offese, certo, ieri ce ne sono state parecchie. L'offesa a cui si riferisce è il boia. Quella dell'altro ieri dell'onorevole Sorial del Movimento 5 Stelle, che è valsa allo stesso onorevole un'apertura d'indagine per l'accusa di vilipendio alle istituzioni. Un reato, questo del vilipendio, e questa vicenda che è stata che ha preso spunto da una deputata del Partito Democratico, Stella Bianchi, che ha inoltrato un esposto alla Procura della Repubblica per segnalare appunto queste offese pronunciate dall'esponente del Movimento 5 Stelle, che dà motivo a Vittorio Feltri sul Giornale di scrivere un editoriale dal titolo «Se la vera boiata è il reato di vilipendio». Gli insulti rivolti dal grillino Soria alla Giorgio Napolitano, scrive Feltri, tra cui boia, sono ormai noti, non vale neanche la pena di commentarli. Può succedere che un capo dello Stato rischi di essere messo sotto accusa, richiesta di impeachment, ma è assurdo, oltre che contrario all'etichetta, che coloro i quali intendono procedere contro di lui non argomentino le pretese, limitandosi a lanciare una serie di contumeli espresse tra l'altro con un linguaggio da trivio. Mai però avremmo sospettato che a una cafonata tipo quella di cui abbiamo riferito, corrispondesse a un'iniziativa talmente balorda da lasciare interdetti. La deputata del PD Stella Bianchi ha inoltrato un esposto alla Procura della Repubblica per segnalare le offese pronunciate dal collega del Movimento 5 Stelle nei confronti del presidente. A quale scopo? Procedere contro lo screanzato Soria, l'avendo costui commesso il reato di vilipendio del capo dello Stato. Siamo basiti per due motivi. Primo, che esista ancora nel nostro codice penale un reato simile da punirsi non sappiamo con quale pena. Secondo, che una signora, per giunta onorevole, si prenda la briga di denunciare un collega, per quanto insolente, solo perché ha dato del boia a Napolitano. Non era il caso. Anche solo la parola vilipendio è obsoleta, figuriamoci ciò che essa significa. Alla deputata Stella Bianchi consigliamo di non sprecare energie per far sì che il grillino venga perseguitato, ma di darsi da fare piuttosto per depennare una legge che fa più orrore delle villanie di Sorial. Questo Vittorio Feltri sul Giornale, ma a proposito di villanie o di insulti, di schiaffi o di spintoni, di ti denuncio e di quant'altro, ieri cos'è successo alla Camera lo racconteremo riprendendo dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità avremo con noi in studio anche oggi eccezionalmente Mauro Meazza del Sole 24 Ore, pur essendo interista, vi rendete conto? Lo facciamo entrare in studio. Non c'è più religione, tra poco. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Ed ecco Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno Alessandro. No, mamma. Pazza intera mala. Grazie, grazie Carmelo. Non è che io voglio farvi ascoltare la canzone, che sono senza parole per questo colpo basso. Uno conosce Carmelo Lauricella da 10 anni e vabbè, e ti fa queste cose. Caro Mauro, buongiorno. Tiro mancino, veramente, buongiorno, sì, Alessandro. Abbastanza, sì. Buongiorno. Che cosa vogliamo riprendere? Allora, no, mi sto solo un po' scioccato, devo un attimo. Vabbè, insomma, allora... Quello che è successo ieri alla Camera, stavamo dicendo, la ghigliottina. Io ieri quando ho letto la ghigliottina in Parlamento, per un attimo ho provato un brivido, ho detto ma... Sì, però, un salto un po' all'indietro nella storia. Sì, esatto, no, è arrivata la ghigliottina. Niente di tutto questo. La ghigliottina salva il decreto legge sull'IMU, così il titolo alla pagina 5 del Sole 24 Ore. Che è successo? Si doveva approvare questo decreto IMU e Banca Italia. I grillini non volevano l'accorpamento di queste due vicende, effettivamente, diciamo, slegate, diverse. Andava approvato entro mezzanotte. Dopo un ostruzionismo di un paio di giorni, la Presidente della Camera ha applicato questa cosa, la ghigliottina si chiama, no? Sì, è una particolarità del regolamento, è consentito, certo si preferisce non usarlo perché evidentemente zittisce, per così dire, il mandato delle opposizioni, il portato delle opposizioni. Però qui c'era in gioco il problema che se non si approvava questo decreto legge saremmo dovuti l'IMU. Tornare alla cassa per pagare l'IMU. Pagavamo l'IMU. Che tu non hai nemmeno studiato. No, infatti io pensavo di aver archiviato la vicenda, invece dovevo riprendere il dossier in mano, i libri, i faldoni, i bigini sotto banco. Comunque, che cosa è successo? È successo poi il putiferio, gli scontri. Allora, ieri, secondo il Corriere della Sera, Alessio Trocino a pagina 5, c'era Casaleggio, cioè non secondo il Corriere, c'era Casaleggio, ma secondo il Corriere ha dettato proprio la linea. A Roma dà la strategia, avrebbe definito inopportune le parole di Sorial, no? Quelle del boia, però poi ha detto alzare un po' il tiro dello scontro. È successo che è finita a urla e spintoni. Le hai viste le immagini, Mauro? Purtroppo sì, sottolineerei il purtroppo. Purtroppo. Hai visto le immagini? Per esempio c'è questa immagine del questore, uno dei tre questori, D'Ambruoso, di Scelta Civica, che si vede, come dire, adesso qua non usiamo il termine perché se dici colpire, lui dice non l'ho colpito ma ho toccato dei deputati. Se dici spintonare, no, per i grillini non è abbastanza perché ha proprio picchiato una deputata. Tu hai visto la moviola? Era rigore? Secondo me era in fuorigioco nettissimo. Era fuori gioco istituzionale, direi. Comunque, D'Ambruoso, pagina 4 del Corriere. Io schiaffi, i violenti sono loro. Insieme ad altri commessi, come questore anziano, il dovere di evitare che la protesta violenta raggiungesse la presidente Boldrini. La parola colpire non corrisponde a ciò che ho fatto. C'è stato un contatto con più di una persona. Ecco, questo ha detto. contatto, sì, il termine è abbastanza da moviola calcistica, però io insisterei sulla vicenda del fuorigioco istituzionale, che peraltro questo dettaglio si fa per dire di Casaleggio, che detta la strategia da fuori, così, non so perché mi sembra ancora più inquietante del termine ghigliottina, però probabilmente mi immagino adesso i grillini ci potete mandare messaggi al 349-238-6666, dura presa di posizione di Meazza che verrà punito adesso via a colpi di SMS. Se ci scrive poi Michele da Monza, che vorrei salutare, Michele. Comunque risponde invece l'onorevole Lupo del Movimento 5 Stelle, Loredana Lupo, pagina 9 della Stampa, intervistata da Andrea Malaguti a fianco ad Ambruoso, dice: io stavo cercando di salire ai banchi del governo, lui mi ha visto, mi ha mirata, ha le braccia lunghe, alto 2 metri, e con uno schiaffo mi ha ributtata giù. Quello che stava succedendo era inaccettabile in aula, mi ha colpito la guancia destra, mi ha fatto saltare una lente. Ora gli ho urlato ti denuncio, era spaventato, è andato via per calmarsi, non mi ha chiesto neppure scusa. Mi ha dato questa manata. Effettivamente la manata, insomma lo spintone, cioè ci sono le immagini televisive sulla 7, abbastanza. Adesso squalifichiamo per 2 giornate. Giudicarlo manata o schiaffone, non lo so. Addirittura sono volate, pensa Mauro Meazza, delle accuse di questo tipo. Giulia Sarti, onorevole del Movimento 5 Stelle, ha detto: abbiamo sentito D'Ambruoso dire non sei mica la prima donna che picchio in vita mia, non mi fermalo. Ma insomma, mi sembrano cose. D'Ambruoso che dice la querelo. Hanno letto il labiale a questo punto? No, non lo so, non lo so. Pare così, questo dicono, l'ha detto. E insomma, insulti e spintoni. Sta di fatto che è passato questo provvedimento anche di Banca Italia. Ora il Movimento 5, il Ministero dell'Economia dice non è un regalo alle banche. Il Movimento 5 Stelle dice è un regalo alle banche. Così anche il Fatto Quotidiano, in un articolo a pagina 3, un regalo alle banche. Anche da 4,2 miliardi. Mauro, come la mettiamo? Allora, fatto salvo che credo che le opposizioni abbiano non solo il diritto, ma il dovere di segnalare quelle cose su cui non sono d'accordo, sono i modi che, come dire, lasciano perplessi. Qui c'era un problema effettivamente di aggiornamento delle quote di Banca Italia possedute dalle banche. Il provvedimento interviene in questo senso. Sai, c'è tutto. Va capito un po' nel problema più complessivo della debolezza dei conti bancari, che non è solo un problema italiano, ma un problema europeo. Come sai, quest'anno è in corso, già dal 2013 prosegue quest'anno, tutto un sistema di revisione degli asset delle banche, delle voci delle banche, per avere una maggiore trasparenza, evitare possibilmente le crisi finanziarie come quella da cui stiamo cercando faticosamente di uscire, e quindi anche una migliore valutazione dei conti. Poi se questo è troppo generoso o troppo poco generoso, diventa difficile giudicare, ed è il dibattito politico che però è degenerato. Ma devo dire che è degenerato effettivamente, che le due tematiche non fossero simili, insomma, da mettere nello stesso decreto. Questa è all'origine della protesta del Movimento 5 Stelle. Sì, questo poi ci porterebbe a parlare della qualità invece della legislazione, non della qualità dei conti bancari, che ohimè drammaticamente peggiora, nel senso che assistiamo sempre più a leggi con centinaia, a volte migliaia di commi, poco comprensibili, poco leggibili, a volte anche con argomenti assolutamente eterogenei tra di loro, che vengono piazzati lì perché è il primo provvedimento utile, come se fosse un po' prendere un treno per spostarsi al volo. Il primo treno che passa. Giornalai fasulli, ci scrive un ascoltatore, ma anche qualcuno che... questo dice: Meazza alle palle mentre Milan è un pavido, quindi siamo a posto. Tu sei salvo, caro Mauro. Ringrazio l'ascoltatore, potrebbe essere un parente. Allora, no, assolutamente no. Tra l'altro, a proposito di insulti, senti cosa sarebbe volato, sempre Mario Aiello, che ha fatto anche l'articolo sulla Mandrillede d'Abruzzo, che leggevo prima, ha scritto anche un articolo su quelle che sono, appunto, dal filibustering, dall'ostruzionismo di vecchia memoria anche della Prima Repubblica, all'ostruzionismo un po' volgare anche, con insulti degli ultimi tempi, come per esempio l'insulto che avrebbe, usiamo il condizionale, proferito Massimo Felice De Rosa del Movimento 5 Stelle alle PD-ne Alessandra Moretti e Micaela Campana, apostrofandole così: siete buone soltanto a fare sesso orale. Questo sarebbe successo in una commissione, noi lo riportiamo. Il dibattito politico non riesce a salire di tono. Allora, in realtà è salito di tono anche l'asticella della questione della riforma elettorale. si sono accordati, questo è l'aspetto politico importante, Renzi e Berlusconi, due massimi artefici di questo accordo, la mini limatura alle soglie 37,4%, questo è il titolo del Sole a pagina 10, per spiegarlo in due parole, si è alzata al 37% la soglia nel cosiddetto Italicum per vincere al primo turno, se uno raggiunge, se una coalizione raggiunge il 37 non c'è bisogno del ballottaggio, il 4,5 invece è lo sbarramento minimo. Per ottenere, per salvare i partitini, diciamo. Al di sotto del quale non avresti rappresentanza quale... in Parlamento, esatto. Se capisco bene. Esatto, e c'è anche questa norma cosiddetta salva Lega, cioè se la Lega ottiene il 9% in tre regioni, ha una rappresentanza parlamentare, sebbene non raggiunga il 4,5% nazionale. Una norma salva, mi viene da dire, salva rappresentanze locali, no? Perché non è poi la Lega l'unica rappresentanza, no, l'unico... anche se quello naturalmente più famoso è meglio rappresentato in questo momento in Parlamento. Certo, 9% in tre regioni, forse è l'unica forza politica che potrebbe raggiungerlo, adesso non lo so. Sì, sembra abbastanza misurato, insomma, sull'attuale potere elettorale della Lega, anche se poi i sondaggi sappiamo che valgono quello che valgono. È chiaro, io vi segnalo l'articolo, il commento di Roberto Dalimonte, proprio in Prima del Sole, Roberto Dalimonte che è anche un po' il guru di questo Italicum, no? Possiamo dire così. Il massimo collaboratore di Renzi, che scrive sulla questione delle preferenze, nel titolo c'è scritto preferenze demagogia, siamo ancora ai guelfi e ai ghibellini, con i guelfi che stanno dalla parte delle preferenze, i ghibellini che vogliono le liste bloccate, come se le une e le altre fossero il male assoluto, invece sono solo strumenti che vanno valutati sulla base dei loro possibili effetti nei contesti in cui vengono utilizzati. Per esempio, Dalimonte ancora aggiunge, in Italia le preferenze si usano nei comuni, nelle province e nelle regioni. E nelle regioni gli effetti è che gli elettori delle regioni del nord e del centro le usano poco. Per esempio, in Lombardia, all'ultima elezione, solo il 12% degli elettori ha espresso una preferenza, mentre al sud e al centro-sud sono usate moltissimo. In alcune regioni l'uso delle preferenze è dell'85,9%. Mauro, ma questa vicenda delle preferenze può davvero essere così decisiva per bloccare o discutere? È davvero un elemento così dirimente? Non è proprio la mia materia, e capisco che forse non è neanche così appassionante poi per il pubblico tutto. Qui c'è proprio una contrapposizione quasi ideologica, su questo ha perfettamente ragione Dalimonte, cioè ci sono dei partiti, degli schieramenti che hanno detto da subito noi vogliamo tornare, vogliamo evitare quello che loro chiamano il Parlamento dei nominati, tornare al Parlamento degli eletti. Questa è una posizione in qualche modo intransigente, no? Come lo è quella invece no, noviniamo e diamo le preferenze. Adesso Dalimonte ci segnala, guardate che poi dove ci sono le preferenze non è detto che l'elettore le usi, anzi spesso le trascura bellamente, come accade appunto ad esempio nelle elezioni regionali. Credo che ci siamo concentrati molto, si siano concentrati molto sul livello delle percentuali, quelle che tu segnalavi prima, sì. E abbiano un po' voluto silenziare questo aspetto su cui non si trovava e credo difficilmente si troverà un accordo, perché sono due posizioni esattamente opposte. Noi sappiamo che le preferenze poi si sono piegate negli anni in cui le abbiamo avute anche a un malo uso proprio di voti, come dire, comprati o scambiati, no, ma infatti, o prenotati. Ecco. Io, come ho detto ieri, ribadisco la battuta che l'onorevole Davide Armini ha fatto sulla soglia. Sai che ha detto a che temperatura ti viene la febbre? 37,5 37, a questo punto. 37, infatti la febbre viene a 37. Ma poi c'è uno straordinario Brunetta, senti qua Brunetta. L'accordo, lo ripeto, fino alla nausea, 5, 8, 12, 35 con ballottaggio eventuale. Altrimenti si fa come il carciofo, prima si toglie la soglia del 35, la si porta al 38, poi si abbassa il 12, lo si porta al 10, poi si abbassa l'8, lo si porta al 7, poi si abbassa il 5, lo si porta al 4, poi si fanno le candidature multiple, sa cosa succede poi? Si torna al porcello. Tutto chiaro? Sì, io, Mauro, mi sono segnato 5, 8, 12, sì. 35. Vorrei ruota... capire se devo giocare su Firenze o su Roma a questo punto. Non lo so, forse su Milano in quanto Arcore. Per Arcore. E non si capisce bene questo. Comunque, Mauro Meazza, dopo il traffico, ripartiamo dalle altre notizie, ci spiegherà anche perché è venuto a trovarci. Oggi c'è Telefisco, l'appuntamento annuale, tradizionale, molto importante. E, insomma, tutti i dettagli tra poco. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, Allora, eccoci qua in diretta nuovamente. C'è anche Mauro Meazza per introdurre la questione Telefisco Sole 24 Ore. Beh, il Sole 24 Ore, come detto, apre, come altri quotidiani, sulla vicenda Fiat. Fiat Chrysler parte la sfida, questo è il titolo. C'è Andrea Malan che racconta come sia nata Fiat Chrysler Automobiles, che sta con sede in Olanda e fiscalmente il domicilio è a Londra. Letta che dice contano i posti di lavoro, ovviamente. Ecco, Mauro Meazza, molti giornali aprono invece dicendo ci siamo giocati pure la Fiat, il Giornale, Libero, il sì. Secolo XIX. Ma questo è un interrogativo assolutamente legittimo. Allora, quello che abbiamo cercato, che cerchiamo di presentare noi sulle nostre pagine, specialmente le pagine iniziali, è da una parte spiegare l'operazione. L'operazione consiste nel arrivare a una nuova capogruppo, appunto Fiat Chrysler, che poi assorbe, viene appunto ad assorbire le quotazioni Fiat, eccetera. Altro è ragionare su occupazione politica industriale italiana. Di questo, ad esempio, scrive Orioli, c'è un problema di pesantezza delle tasse e del cuneo, come si dice, parafiscale, quindi anche contributi e quant'altro che vengono chieste alle imprese e ai lavoratori. La vicenda Electrolux in questo senso è pure accomunabile alle decisioni di Fiat. Io segnalo che il presidente della Fiat, John Elkann, viene intervistato dal direttore della Stampa, Mario Calabresi, e dice il mio ufficio è questo, quello in cui mio nonno ha passato gli ultimi 5 anni della sua vita, non si sposterà, resta qui al Lingotto, non ci sono scatoloni in giro, nessuno ha mai pensato di traslocare, vivo a Torino, i miei figli sono nati qui, qui vanno a scuola, qui hanno gli amici. Insomma, l'esordio, come dire, perché poi ovviamente fa tutta un'intervista di 2 pagine in cui parla del futuro più solido, lui dice, il settore dell'auto, in questo caso della Fiat, ma comincia da una tranquillizzazione, diciamo, a dire nessuno sbaracca. Beh, dopo l'avvio dell'operazione con la Chrysler, diciamo che era un po' nelle cose che Fiat adottasse una fisionomia più internazionale. E in questo momento, certo, siamo anche preoccupati, legittimamente preoccupati, e qualche giornale lo scrive sì, magari in modo polemico, ci siamo giocati la Fiat, appunto, ma siamo preoccupati che questo non significhi ricadute occupazionali pesanti. E questo, certo, sulla domanda chiave, cioè sulle tasse, non risparmieremo niente, continueremo a pagare le tasse in tutti i paesi in cui facciamo utili, Italia inclusa, così ha detto John Elkann. Ma veniamo allora, Mauro, a Telefisco. Tasse. Telefisco, l'appuntamento. Oggi è il giorno delle tasse, caro Alessandro. Alessandro, perché sempre il giorno delle tasse. Quando finisci, se vuoi passare dalle 9 a Telefisco, oppure se vuoi sintonizzare, è visibile anche su internet. Questo confronto noi lo facciamo tutti gli anni con gli esperti del Sole 24 Ore e anche i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, cerchiamo di chiarire tutti i dubbi e le novità fiscali dell'anno che si è appena aperto. Avviene sempre verso la fine di gennaio, appunto. Quest'anno siamo alla 23esima edizione, tutti i particolari su come seguire la manifestazione, che cosa succede in questa giornata, eccetera, sono ovviamente riportati sul Sole 24 Ore, e quindi sarebbe molto utile anche per te se volessi studiare qualcosina, non so, l'IMU, il rientro dei capitali dall'estero, per esempio, questi 2 euro che hai dimenticato fuori. Chi non ha fuori, però ancora il Sole in questo momento in mano, che fa alle 9? Allora, chiama? Potrebbe anche sintonizzarsi sul nostro sito direttamente di Telefisco, cioè www.sole24ore.com. C'è la sezione Telefisco, c'è un'area Telefisco. Oh, ti segnalo che per i commercialisti, però sì, in generale per gli amici di Radio Fisco, per così dire, abbiamo diverse cosucce interessanti oggi sul Sole. Perché per i commercialisti è arrivata l'equipollenza ai fini dell'attività di revisore. C'era una polemica molto molto pesante e finalmente hanno trovato una soluzione, quindi l'esame da commercialista vale anche per revisore. E poi il POS, il bancomat per pagare dal professionista, per pagare attività di servizi, diventa obbligatorio, ma dal 30 giugno 2014. E poi ieri hanno varato anche la delega fiscale, mentre si picchiavano, però c'è stato un passaggio importante, perché adesso arriverà in aula questo progetto, mi avrebbe quasi, stavo dicendo, questa promessa di riforma del fisco, vabbè, una promessa, in cui si promette, appunto, che so, il catasto calcolato sui metri quadri, non più sui vani, si promettono nuove norme contro l'abuso, per l'abuso di diritto e così via. Anche qui tutti i particolari non in cronaca ma sul Sole. Allora, intanto io voglio ricordare anche due o tre notizie di cronaca che trovate sui giornali. A proposito di tasse, caro Mauro, viene intervistata da Repubblica Angela Armellini, sai chi è? In ma prima per pagina, colei che è accusata di avere evaso le tasse per di aver nascosto qualche migliaio di immobili. 1243 immobili, una lunga intervista che rilascia aveva Repubblica. Perduto i nostri inserti sull'IMU, sì, probabilmente. Esatto, Paolo Boccacci. Lunedì è corsa all'Agenzia delle Entrate, inizia così l'articolo. Martedì ha risposto alle domande del pubblico ministero. Ora nell'ufficio del suo avvocato, nel cuore del quartiere Parioli a Roma, cappotto scuro, maglioncino grigio, orecchini di perle, Angela Armellini risponde a tutte le domande di Repubblica. Dice: errori sì, ne ho fatti, ma non sono la regina degli evasori. Spiega insomma tutte le società, spiega la residenza a Monte Carlo, perché dice: ho subito un tentativo di sequestro, mio padre fu sequestrato e quindi sono andata a vivere a Monte Carlo in quel periodo, non era una residenza fittizia. È considerata la regina dei salotti romani, ma dice: le regine dei salotti sono altre, fanno mondanità. Io lavoro, ho due figli, molti amici, qualche volta ho il piacere di riceverli. Insomma, si difende così da tutte le accuse. Ma per quanto riguarda l'IMU e dice no, 2 miliardi di IMU, ma dice non è vero, non è vero, spiega tecnicamente: non ho evaso certamente 2 miliardi, non posso aver nascosto un patrimonio del genere, non ho simili di ricchezze. E la Guardia di Finanza che afferma che possiede un patrimonio di 200 milioni di euro fatto per 10 anni fa 2 miliardi. Sarebbe, però, insomma, sarebbe una cifra di tutto rispetto, tra l'altro perché l'IMU prima casa che abbiamo fatto così fatica ad abolire non arrivava ai 4, e quindi speriamo che la signora abbia ragione, come dire, non ci siano sfuggiti altri 2 miliardi. Lo spiegherà i magistrati. Comunque siamo al momento conclusivo, caro Mauro, e sai cosa succede nel momento conclusivo? La carta? Costa, la carta costa, il premio più ambito di questa rassegna stampa, l'Oscar della rassegna stampa mondiale. Adesso mi sto un po' facendo prendere la mano. Comunque l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi, un'intera pagina, Mauro Meazza, firmata da Daniela Ranieri sul Fatto Quotidiano, sul trucco mancato di Berlusconi, l'ultimo trucco di Berlusconi, mostrarsi vecchio per sembrare nuovo, tutta un'esegesi del perché il volto rugoso apparso sul Sunday Times è l'indice di una strategia, parlare all'elettorato più anziano, apparire truccato, ma chi se ne frega, ma dai, una pagina sul Fatto, di qualcosa. Voglio dire che domani scade il termine per comunicare i beni ai soci. Dico, me la cavo così, non ho parole. Va bene, la carta costa, ma non se ne accorge. Potete rimettermi la canzone? Giornale radio, dai. Pazza intera mala, è una gioia. Sta canzone.